ci capita qualche collegamento, si fa qualche collegamento, diciamo, quando c'è la preparazione, e se no i collegamenti li facciamo fare agli altri. Sì, Sandro, ma cioè io ho l'amplificatore, ne ho due, ce l'ho, c'ho quello della Yaesu e l'altro quello grigio che c'è in fondo, ma li uso in HF, capito? Avere un amplificatore del genere, con una spesa del genere per usarlo in AM non si via nulla, è meglio un baracchino con un amplificatorino da 300 watt e lo fai andare lo stesso segnale. Così è sprecare denaro, capito? Perché costa una barca di soldi, chiaramente secondo che posizione sei, che condominio sei, distruggi tutto. Io essendo in auto non ho mai avuto rotture di palle, uso potenze quando trasmetto in banda amatoriale, uso potenze alte, però è un'altra guba anche perché sei in banda laterale, quindi il segnale è molto più pulito, in AM è molto sporco il segnale, quindi ti faresti un sacco di nemici. Vedi tu, vedi te, fai te, e se no fai Gammo Miller a Matteo Gosa. Sì, c'è poco di fare Gammo Miller e temi. No, adesso sto aspettando che arrivi quella l'ultima cosa che mi deve arrivare. Quel mic là, l'autotornante, basta, non vado a prendere altro, perché mi basta e me ne avanza così, capito, non ho, tanto mi è inutile. Se lì ce l'hai davanti, non lo puoi usare, ti dà fastidio, quindi meglio. Ogni tanto se te lo vuoi vedere attacca il computer, vai, lo cerchi, te lo guardi, e fini dei chili. È l'unica. Sì, ma infatti è così. Io ti ripeto, ce li ho perché mi servono, Dio, non è che li uso spesso, la verità, però ce li ho perché servono per fare HF, ma per lei me ne basta la potenza che erogare la radio, sono 100 watt, è più che sufficiente. Poi se voglio aumentare posso anche aumentare sino a 120, 130 watt, ma sempre la potenza dell'HF, e anche tu puoi fare la stessa cosa, quindi non serve a niente. Non avrei bisogno di stare a pompare a fare. Io li uso molto, ma molto poco, solo in caso di necessità, anche qua in AM, quando capita, l'altra volta l'ho attaccato, è sempre in stand-by e io quando accendo anche gli amplificatori. Però arrivi a questi bazzinati di luci, è una cosa allucinante. Sì, a parte le bazzinate della luce, Ocla. Ah, non ne vale la pena, dai, cazzo, cioè, a fare pazzie, per che cosa? No, lascia perché, lascia perdere, basta, sono arrivato così e mi va bene più che bene così, altro è a buttare via, quindi a buttare via non ne abbiamo. Va bene così, l'unica cosa invece che dovrò cambiare questo alimentatore, c'è questa ventolina, sempre pompendi, questa ventolina, lei la botta. Sandro, la ventola è in base alla potenza che tu le dai, se tu fai lavorare l'alimentatore con la radio con 50 watt, 80 watt modulati, quindi con un assorbimento di circa 18-19 ampere, è chiaro che la ventola dovrà fare l'alimentatore. Se tu invece usi la radio con, guarda il mio, ecco adesso si è accesa, io sto andando con 40 watt modulati ed è importante, ne ho 20, e se io metto la radio a 100 watt rimane sempre in funzione, perché così. È chiaro che più assorbimento c'è l'amplificatore, soprattutto quando è di linea, e più il termostato le dà l'impulso alla ventolina. Una cosa normalissima. meno propensa a cirugia e meno la vena entra in funzione per raffreddare la vena cattore. È una cosa normale che tu sai benissimo, no? Quindi dipende sempre da noi come usiamo le radio. Se le usiamo a livello basso, le alimentatori lavorano con un amperaggio basso, se le usi a potenza alta, e così via, si è attaccata la ventola della radio. Perché? Perché vuol dire che il finale sta eccitando la ventola e le dice raffreddami che c'ho caldo. Aspetta un attimino che voglio vedere una cosa. Aspetta un attimo. Ok, tanto già mi senti. No, devo uscire. Devi uscire, dove devi andare? Ecco, adesso ci siamo. Spera un attimino. No. Aspetta, dove stai andando? Aspetta, Dio, tu. Chi è che mi ha chiamato? 10, perché c'è sonno, poi alle a mezzanotte accendo il baracchino. Tutti pompano da me, non c'è problema, tutti pompano, pompano, pompano, e che pompette che fanno. KK di Rosmetro. Beh raga, non sapete già vi dico, che io vado a cenare, ciao da me, prima che ti perda. Ciao Luca, ciao Sandro, ciao Mauro, ciao Antonio Falchetto, se sei all'ascolto. Io vado a cenare, se ci siete ci sentiamo dopo, cambio. Sì, ok, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao a tutti, a dopo, buona cena a tutti, K. E buona carica. Ehi, ehi, carichiamo, carichiamo, ghiaia e cemento, e sabbia la lasciamo a domani. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao Gianni, ci sentiamo dopo se coincide. Siamo andati tutti a cenare, K. Ah, ecco, un attimo, boh. No, e che cazzo. Ecco qua. Vabbè, Salvedio, questi funghi qua, sì, le stai cucinando o le stai cucinando? Gaba! Stai cucinando, aspetta che abbasso io. Lasciamolo così. O starà cucinando, boh. Io pensavo che era già pronto, le c'era qualcuno per il giù. Stanno cucinando un po' di pasta. Sto aspettando l'aria, ci verrà di a arrivi o dove ti babura. Ci sentiamo dopo ragazzi, già sono in ascolto, vai. Cappa di positivo e Cappa Roger, ma quale fredda c'è tra il 4 e stavo usando poco fa questo qua. Ho capito, grazie. Poco fa stavo usando il 430, adesso sto usando quell'altro, quello che avevo prima, molta differenza c'è di radio. Sì, sì, io preferisco, è troppo qua, è troppo, già troppo andare un bel forte. Ti preferisco di più con il, come si chiama, con l'MC60. Vabbè, come fa non andare con l'MC60? Cazzo 140 con cos'anno, non andare con l'MC60. Adesso sto usando la Rune, se ti sto dicendo da poco fa adesso molta differenza c'è. Non più di tanto qua, Sono belle tutte e due. Sì, sì, infatti. No, già va bene. Il migliore è l'MC60, per te è l'ideale. Capito. Vabbè, questo è l'Adonis, quello che mi ha detto Unia Radio, quello che uso, quello di Sandro, va?